Maglietta, Popolo delle Libertà. Sì, buon pomeriggio Daniele, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, siamo in attesa dei primi commenti che però ci è stato già annunciato non arriveranno prima delle 16.30 quando ci saranno le prime proiezioni su dati reali. 400 giornalisti accreditati, radio e tv, più quotidiani italiani ed internazionali, questi numeri del quartier generale del Popolo della Libertà allestito per politiche ed amministrative, i leader non sono al momento presenti, Berlusconi è a Milano, Fini in via della Scrofa. Si annunciano dunque un lungo pomeriggio ed una sera di attesa per la definizione della tornata elettorale, c'è comunque ottimismo tra le file del PDL, si rammentano i sondaggi circolati fino a pochi giorni fa che davano il Popolo della Libertà avanti di 8-10 punti, la Camera sarebbe data per vinta, si attendono i numeri del Senato, ricordiamo che Berlusconi puntava ad una maggioranza di 20 senatori e dall'auditorium qui di via Tupini è tutto, linea allo studio. Allora.